Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Come sapete, da ieri stiamo trattando il caso dei 1247 abusi scoperti in un solo anno, ma sono quasi 14.000 dal 2000 ad oggi. Abusi edilizi scoperti in una, messi uno dietro l'altro, in una relazione della Procura della Repubblica di Nola. Quindi ci troviamo in Campania. Allora, uno scempio nel Vesuviano, in quella zona che è meravigliosa dal punto di vista ambientale, è pericolosissima, perché come sapete lì sopra c'è il Vesuvio, che è già qualche danno in epoca non recente ha provocato. Ieri abbiamo parlato di questi scempi che si susseguono, continuano. Ricorderete il caso di Casalnuovo, sciolto per mafia, imprenditori uccisi perché comunque legati alla criminalità organizzata, un quartiere completamente abusivo. Insomma, purtroppo la storia si ripete. Ringraziando Dio c'è chi vigila. Chi è che vigila? La magistratura, le forze dell'ordine, devono farlo anche ovviamente le amministrazioni comunali. Abbiamo cominciato a parlarne con il capo della Procura della Repubblica di Nola, Paolo Mancuso, con il responsabile di Lega Ambiente, Michele Buonomo. Oggi abbiamo due sindaci con noi, che ringrazio fortissimamente. Perché? Perché insomma, soprattutto uno dei due ha avuto, e di questo veramente lo ringrazio, il coraggio di metterci, non dico la faccia perché non lo vedete, ma la voce, il nome e il cognome, ed è il sindaco di Somma Vesuviana, Raffaele Allocca. Buongiorno sindaco. Buongiorno a lei. E il sindaco invece di Bosco Reale, Gennaro Langella, che si trova fuori da questa classifica, diciamo così, di scempi, e che è un comune che sta facendo molto contro l'abusivismo edilizio. Buongiorno sindaco. Buongiorno a lei e a tutti gli spettatori. Allora, sindaco Allocca, io la ringrazio perché? Perché se voi andate a vedervi il Mattino di Napoli, qui, che ha portato uno dietro l'altro tutti gli scempi in questi comuni, beh, troviamo che il comune di Somma Vesuviana è il comune che si trova al secondo posto nella speciale classifica, certamente non invidiabile, dell'abusivismo edilizio. 1037 abusi edilizi censiti dalla procura dal 2000 al 2009. Sindaco Allocca, non mi pare un bel primato. No, non è un bel primato, e la cosa non è che possa far piacere né a me né alla città che rappresento. Però una puntualizzazione va fatta. Premesso che io, come rappresentante di un'istituzione, alla pari del dottor Mancuso, quotidianamente svolgo come la Procura di Nola un'opera di sorveglianza e contro l'abusivismo edilizio, e lo sta a dimostrare il fatto che nell'ultimo periodo, nell'anno 2009, nel mese di agosto, che per quanto riguarda l'abusivismo presumibilmente è il mese più critico, noi a Somma abbiamo finalmente, per la prima volta nella storia amministrativa, potuto constatare un solo abuso di un muro di recinzione. Verosimilmente io sono pure pronto a contestare questa classifica, ma non in termini polemici, ma se non altro per dare, diciamo, merito al corpo del comando vigili urbani e alla stessa locale stazione dei carabinieri, che questa graduatoria ci vede al secondo posto, forse perché siamo più attenti a un controllo. Ma io le vengo incontro, perché già ieri il capo della Procura della Repubblica di Nola e anche il dottor Buonomo non è che mettevano in dubbio il fatto che non ci fossero dei controlli. Quindi lei dice probabilmente questa classifica va anche letta come un controllo che viene fatto sul territorio. Ovviamente io non ho armi per replicare, se non l'arma del dubbio, perché comunque i vostri sono paesi, non parlo soltanto del suo, ma paesi comunque sottoposti ad uno scempio decennale, voglio dire. Oppure lei lo nega questo, sindaco? Dottor, non lo nego nel modo più assoluto, però prendo atto che sono capo dell'amministrazione da un anno e mezzo, e che in questo anno e mezzo verosimilmente ho provveduto almeno nel 50% del personale ad una rimozione di chi verosimilmente si poteva ritenere responsabile di questo scempio. Però tenga anche presente che il comune di Somma Vesuviana, quale comune facendo parte dell'ente parco, quale comune che dopo quello di Pompei ha tutti i vincoli possibili e immaginabili. Verosimilmente, più delle volte, questo abuso non si riferisce a un vero e proprio abuso di speculazione, nemmeno a un abuso di necessità, ma a una difformità inerente a questi vincoli archeologici, paesaggistici dei comuni facenti parte dell'ente parco. Quindi diciamo che io prendo. Non stiamo parlando di un abuso sic et simpliciter, ma verosimilmente più nemmeno di un abuso di necessità, ma il più delle volte di una semplice difformità urbanistica. Io ne prendo atto. Mi faccia completare. Ecco, però velocemente, perché devo parlare anche con il suo collega. Faccio l'ultima affermazione e poi mi fermo. Prego. Qui. Questo però non ci esima da non essere sentinella per quanto riguarda l'abusivismo edilizio, e io, e questa è l'ultima dichiarazione che voglio fare, io ho avuto il piacere di poter dire in un contesto specifico al dottor De Chiari che verosimilmente, se ognuno di noi si assume la propria responsabilità, noi in tempo reale possiamo localizzare l'abuso attraverso un controllo satellitare già in itinere, già in essere, ma che nessun sindaco, nessun procuratore e nessun altro sovrintendenzo o qualsiasi altro istituto ha voluto prendere in considerazione. No, ma di questo lei ha perfettamente ragione, ne abbiamo parlato già noi in questa trasmissione, ricordando che il programma, diciamo così, di ricerca satellitare è curato dall'Università di Salerno. Ci furono moltissimi contatti con la Regione Campania, ma non ne fu fatto assolutamente nulla. E prendo atto comunque delle sue dichiarazioni anche sull'abusivismo, che non è né di speculazione né di necessità. Ricordo però che anche a Favara non era né l'uno né l'altro, era un tetto di cemento armato che ha fatto crollare un palazzo. Quindi l'abuso per me è abuso, punto, anche se è una stanza in più o un tetto rialzato. È comunque pericoloso e, parliamoci chiaro, è illegale, punto. Allora, caro Langella, voi invece venite presi per mano da Legambiente e dite: guardate come si sta comportando il sindaco di Bosco Reale. Langella, come vi state comportando? Poiché Bosco Reale negli anni passati è stato soggetto a due scioglimenti per infiltrazione camorristica, in cui gli abusi edilizi erano una parte sostanziale, abbiamo deciso di affrontare di petto questa problematica. Abbiamo creato una task force, chiaramente formata dai nostri vigili urbani e da alcuni funzionari dell'ufficio urbanistica, che quotidianamente e soprattutto nei mesi estivi operano sul territorio in stretto contatto con i carabinieri e con la Procura della Repubblica di Torre Annunziata. E devo dire che effettivamente i risultati stanno arrivando. L'anno scorso abbiamo sequestrato circa 124 cantieri, e tutti di piccola entità. I grossi abusi, gli abusi speculativi non sono presenti affatto sul nostro territorio, e quindi siamo abbastanza soddisfatti del nostro operato. Ecco, allora, sindaco Langella, una domanda chiara e tonda che faccio a lei, ma la faccio anche al suo collega, perché io non parto mai con dei pregiudizi, mai. Per me il sindaco è la sentinella della legalità della propria collettività amministrata. Su questo non si scappa da questa, che deve essere la regola. Allora le dico, dica apertamente, che valore e che peso devastante hanno le cosche nell'imprenditoria edilizia nel vostro territorio? Guardi, fortunatamente in questo. Ma io non dico soltanto, attenzione, non dico soltanto a Bosco Reale, mi riferisco più in generale all'area, del Vesuviano. No, allora devo dire che per gli anni passati c'è stata una forte influenza, però sembrerebbe che gli interessi delle cosche malavitose siano passati in altri settori ultimamente, fortunatamente almeno dal punto di vista ambientale, anche se ovviamente vanno combattute anche nel traffico della droga, che è l'attività prevalente almeno nelle nostre zone. Quindi sinceramente non abbiamo grosse infiltrazioni di questo tipo, e che comunque, vi ripeto, si sta contrastando in maniera forte grazie anche all'apertura di una nuova caserma a Torre Annunziata. Sono arrivati 350 militari che sono ben presenti sul territorio e che stanno fortunatamente mitigando questi tipi di... Allora, questo è molto importante. Allora, io ringrazio ovviamente i nostri sindaci, il sindaco Langella e il sindaco Allocca, entrambi, come dire, paladini, devono essere i paladini, e sicuramente abbiamo sentito dalle loro parole la volontà di contrastare il fenomeno, ma abbiamo anche sentito il grave atto di accusa nell'area della Procura della Repubblica di Nola, che ha messo uno dietro l'altro queste decine di migliaia di abusi edilizi, di minore o di maggiore importanza. Il problema non è questo, la legge va rispettata, punto. Ringrazio ovviamente quindi tutti i nostri ospiti in questi due giorni, in regia Valeria Bernardi e in studio Elisabetta Fusconi, e Roberto Carullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.